Non è possibile, anche questo radiotecnico, che poi il radiotecnico, tanto bambino lì, quello sa solo installare le autoradio e basta. Poi, vabbè, comunque, pazienza, ormai è fatta, salvivo, dove va, d'altronde. Peccato perché la manta vanno la truppi così facilmente, per cui quella poteva essere ristrutturata e l'avreste continuata a utilizzare tranquillamente. Adesso magari con tutta questa modifica che ti fanno ti costa quanto comprare la nuova, tu mi dai ma nuova non si trova, pazienza, e cosa ci vuoi fare? Mi prendi, va bene. Ok, aspetta se c'è muro, avanti Claudio. Sì, sì, ho cambiato la radio, sì, tanto buonasera anche a Giulio, ho sentito Giulio, sì, non so come sto uscendo con questa. Questa sei perfetta, segnale quasi 9.20, radio 5, ottima. Vediamo se Saverio ti ha copiato. Saverio, ci sei? Sì, l'ho sentito benissimo ora, eh. Buonasera, me l'ha ascoltato per la primiera. Ci sei riuscito a sentirlo, Claudio? Sì, appena, però non riesco a capire quello che dice, quello super saluto, ascoltando. Io purtroppo ce l'ho il QRM a Santiago 5, ce l'ho in mezzo al QRM, roba, capito? E non lo sento, capito, purtroppo. Pare che più là migliorando l'antenna e si farà ascoltare il tuo. Riprendi Giulio. Anch'io ti ascolto in mezzo al QRM. A chi? A Claudio di Muros. Cura goda. Buonasera, salutori. Signor Fondoscale, allucina. Più forte di te arriva mi roba. 9.40 arriva, 9.40, tu sei 9.30. Abituato a sentirlo 9.10, 9.15 a carbonazzi, che sciuga. Siamo proprio uno di fronte all'altro, 9.40, segnale più alto di tutti, di tutti. Avanti Giulio, scusa, buonasera a tutti comunque. Io ogni tanto mi allontano perché sto cucinando e quindi io quando cucino devo seguire anche la cucina, ma vi sento, vai giù. Sono di nuovo a telefono qua. Vai Bobo. Passa domani, Cla. Cosa? Domani passa. Oggi non sono potuto passare, vabbè, perché mi sono dimenticato che avevo appuntamento all'ufficio tecnico del comune, capito? Che devo fare dei lavori e io voglio fare cose fatte bene, quindi ho portato le foto e tutto, abbiamo visto che si può fare, devo fare due tettoie, hai capito dove? Una a una parte ma all'altra, dove c'è due tettoie, per cui mia moglie stende, lì fa, insomma più riparato, devo farle in muratura e quindi non voglio la rottura di balle. Allora Cla, tu l'hai visto chi c'era sabato con me? Sì. E non sai cosa fa qua? Glielo so. Però io avevo appuntamento con un carissimo amico che tra l'altro è anche in consiglio comunale, capito? Quindi mi ha dato tutte le dritte. Sono andato dall'ingegnere, dal responsabile, dai. E mi ha già messo la firma, quindi adesso devo solo ordinare il materiale, però purtroppo il tempo è brutto, quindi lo farò in primavera. Comunque, sappi che tutta la roba passa per mano lui, e lui è quello che ha il protocollo, che gestisce tutto. Tra 67 giorni va in pensione, per cui bisogna approfittarne subito. Ok, facciamo avanti a Saverio, avanti. Sì, io vi sto ascoltando volentieri, Sto facendo un paio di cosette qua. Ma mi dispiace che non riesco a far andare questo microfono da TAV, questo MB+5. Io ti ascolto perfettamente, cosa vuoi di più? Non l'ho compreso. Ma sto uscendo col microfono originale, capito? Volevo mettere l'altro, quello da tavolo preamplificato. Però tende a scarmi, non va, secondo me non c'è massa. Verifica, magari può essere una fesseria o qualche contatto magari che non di cosa, di massa, eccetera. Ok, muro su a te il mic. Sì, mi stavo ascoltando perché stavo guardando una roba al computer, sì, vabbè, volevo chiederti, hai risolto con quella cosa del computer, siccome quella roba mi sta arrivando in questa settimana, ecco la roba che ho ordinato, riprendi? Sì. Mi arriva un attimo, mi arriva nuovo, adesso è il livello proprio passo. Sgancia. Sì, claro, c'era Gianfranco, Luca ha fatto lavoro, diciamo, manuale e cose, il resto l'ha fatto Gianfranco, mi ha installato un po' di roba via remota, ha fatto delle cose veramente spettacolari, mi dice, a molto opportuno ti informerò, cose veramente di lusso che non mi aspettavo se potessero fare tante così tante cose. Ok, claro, comunque tieni presente, se serve qualcosa abbiamo gli appoggi giusti. Io sono qua, buonasera. Ciao Eugenio, ben sentito anche a te. Cioè Sarvedio, vediamo se Sarvedio ti ascolta. Sarvedio l'ha ascoltato a Eugenio? Certo che l'ascolta Eugenio di Porto Torres, se non vado errato. Avanti Eugenio, buonasera, ben sentito. Buonasera a te e tutto Muros, buonasera, ben sentito. Come va, a posto? Ah no, Eugenio di Muros, ok, Eugenio Santiago Otto qua, Monte Rosello Alto, non so come mi stai ascoltando a me, eh. Ah, Monte Rosello Alto, vabbè, basso, no, credo sto confondendo con i Muros. Niente, sì che ti ascolto, passo ma ti ascolto. Vabbè, ragazzi, non possiamo avere molte pretese, per il momento abbiamo un'antenna così sul poggiolo, un'autocostruita e niente, cercheremo di migliorare. Avanti, Cla. Cappa del Rogero, ciao, Chihuahua. Ben ascoltato, hai portato la pioggia, sono in barra di Aleva che fende occhi. Ciu ciu. Vai, Muro, ciao. Sì, tu proprio 9.40 sul 430, 9.40, quello non scherza. Roberto 9.30 con picchi a 35, segnale più alto anche il suo, però quando sei tu è micidiale la cosa, evidentemente siamo a vista ottica, siamo a vista ottica. Va bene, quindi saluti a Chihuahua, vai Roberto. Ehi, allora, sentito quello che ti ho detto prima, se serve qualcosa in quella situazione che mi hai nominato prima, fammi sapere che ci possono aiutare. No, Ro, ti ringrazio, avevo appuntamento già la settimana scorsa, non sono potuto andare, sono andato stamattina, avevo appuntamento alle 10:15, quindi sono uscito assieme a mia figlia alle 9:30, abbiamo fatto tutto, per quello non sono passato. Domani già mi faccio vedere se non piove, perché mi sa che domani sono anche senza macchina, poi mi direi anche per quella cosa. No, ma già il funzionario me l'ha già firmato l'autorizzazione per fare queste due verande, capito? Queste due tettoie. Però aspetto il tempo bello, tanto non l'ho mai detto, non ti preoccupare, non scale, tanto lo fai entro quest'anno il lavoro, io arrivo entro quest'anno, adesso mi ordino tutto il materiale, le travi, tutte cose, e poi lo faccio. Avanti, vediamo se riprende Giulio, se no riprende tu Eugenio, dai. Giulio? No, vai Eugenio. Un attimino, sto compilando un documento che devo consegnare al capitano di domani, un attimo, riprendi tu qua. Ehi, vai, Xavi. Io qua sono in apparato, mi sto ascoltando volentieri, sto macinando, devo buscare uno strumento perché mi ha prestato un altro anello ma non riesco a farlo funzionare. Voglio sapere quante stazionali ha questa antenna che ho costruito. Io non agio, so chi la sta vendendo, 50 euro della ZG dagli incrociati, nuovo, se ti serve me lo dice, te lo do un pareggio, ma che lo do io. E quale, che modello è, Claudio? 50 euro usato, adattato, deve essere già un buon strumentino. No, è buono, la ZG, quello degli incrociati, il 700, il modello 700, è buono, l'ho avuto anch'io, degli incrociati, molto semplice, fa tutto da solo, automaticamente ti misura stazionali e watt, tutte cose, è buono, forse sono i migliori che ha fatto la ZG, quelli lì degli incrociati, capito? Il modello 700, è buono, l'ho avuto anche io, poi l'avevo dato e non me l'hanno bitturato, tanto baciambara. Andava, adesso vediamo un po' sistemare tutto qua, perché volevo metterlo un po', adesso è così appoggiato, c'è un switch, un 30A, baracchino, adesso mi deve arrivare un giocatore. Vabbè, poi riprendi tu che vado a girare la roba al fuoco. Vediamo. Salve, se te ne serve uno a prezzo, per provare ce l'ho io, passa quando vuoi, già lo sai dove sono. Giusto per vedere, perché questa domanda tanto meno non riesco a farlo funzionare, datemi una dritta a voi, io, qua c'è poco da fare, metti a fondo scala, schiacci il tasto rosso, SWR, e deve scendere, ma non che non fa la luce, non ci credo che sia stazionaria, perché sono picchi positivi anche, stai attenti con quegli apparecchietti, ma sono pure i fascianti, cosa ne sappiamo, no? Una cosa, da te, tu sei sempre a fare la pizzeria, salve. certo, oggi è il mio giorno libero, lunedì, e mi sono voluto dedicare un attimino qua alla radio. Ho fatto il mobile, tutto di lusso, la prunga è passata dietro il mobile, entra dentro la ciabatta, mi ho organizzato un po' di cose, dai. Lì lavora un'amica mia, carissima amica, trattamela bene. Chi è? Dimmi, dimmi. Ma adesso attualmente, perché ultimamente ne sono passate diverse, ragazzi. Quella straniera. Ok, ok, Barbara, in gamba, una brava ragazza. Bella è lavoratrice pure, non solo nel campo vuoto, perché è una ragazza che si dà da fare, veramente è in gamba. No, nel campo vuoto sta imparando, gli stiamo insegnando tante cose, ma è una brava ragazza, vuole essere oggi, è una brava ragazza. Io pizzeria ne giro tante. Vieni, non ci sono problemi, non ci sono problemi, vieni a trovarci. Siamo a Monte Rosello noi. Monte Rosello, ma fate l'asporto o ci sono i posti a sedere? No, posti a sedere non li abbiamo, siamo l'asporto, magari, magari. Lui al sabato ci hanno distrutto, sabato ci hanno dato dentro. 320, grazie, sono andato sciolto sabato. Salve, finché vedo travaglio, è brutto quando sei senza fare niente, lo sai, ne vedo pizzerie chiuse, che mandano 10 pizze al giorno fa. Sì, ho capito, no, vabbè, noi quando non facciamo niente sono sempre 80-100 in settimana. Il lunedì lavoro molto, mio fratello c'è un extra che fa 3 giorni alla settimana, il lunedì viaggiano sulle 150, così, non ho capito perché, deve essere ci sono molte pizzerie che sono chiuse. Praticamente noi abbiamo giorni di chiusura, noi siamo aperti 7 giorni su 7 e ci alterniamo a giro, e il forno non ha mai il giorno di riposo, sta sempre andando. Sì, siamo messi in una buona posizione, poi di lì c'è traffico, dai, nel senso ce ne sono anche altre più vicine, ci siamo in zona, però se uno lavora bene le pizze sono buone e le cose, i clienti ci ritornano. Posizione relativa, è inutile, c'hai la posizione buona, ma se non lavori bene, non c'è materiali buoni, la merce è buona, il coso, e alla fine vai a morire, capito? Noi ci abbiamo fatto spazio perché grazie a Dio diamo un ottimo prodotto, non lo dico perché ci lavoro, ma è così, anche perché mio padre lo compra un sacco di pari, ma paga 30 euro, e non penso perché sia un imbecille, perché 27 anni che lavoro in questo settore. È perché vuole dare cose di qualità, c'è gente che vuole dare farina da 13 e i risultati sono diversi. Guarda, io sul mangiare non ne faccio d'economia, deve essere roba la pago di più, però voglio roba buona, non ne voglio di cose che domani sono a mal di pancia, perché il lievito è l'offio, perché i funghi che ci hanno messo chissà di cosa so, guarda, e la figlia ieri ha preso una pizza di quelle a telefonate e l'hanno portata, e me l'ha mangiata un pezzo di ma l'ha fatto buono male, ci credi? Era un pezzo di pietra, l'ho mangiata, era un po' fredda dopo mezz'ora. I funghi non si sa dove erano tutti questi funghi, perché sembravano presi da un barattolo e buttati così, nel senso senza niente. Scusate un attimo, io vi lascio, vi saluto e ci sentiamo domani. Ciao Roberto, Salverio, Claudio da Buros, Claudio da Sassari e poi Ricera, forse Luca, non so, Buros, Eugenio, ciao Eugenio, ci sentiamo, chiudo, ascolto il finale e poi chiudo, va Eugenio. Ciao zio Giulio, ci sentiamo domani, ciao, buona serata, buona nottata. Vai Claudio Damuro se mi ascolti. Sì, può essere, stato io, sì, sono riuscito ad ascoltarvi, adesso copiare perfettamente quello che hai detto. Sì, saluto anche a Giulio, ciao Giulio, buona serata, dunque le sia le prossime, ci sentiamo, mi ha fatto piacere, grazie del consiglio, riprendi Roberto. Che ciao giù a bassare molto, è troppo alto di voce comunque, a parte gli scherzi. Ciao distorci, buon tutto e buon proseguo di serata Giulio, ciao ciao. Ciao Giulio Rollaro, a risentirci, a presto. E comunque qua arriva una fucilata, sicuramente siamo in linea, perché c'è una radio molto molto forte. Ok, alle prossime. Ciao Savirio. Chi è che è entrato così maldestramente, avanti. Non sai chi sono. Buonasera Natali, ben ascoltato anche a te, qua siamo un po' di amici. Meno male, buonasera a tutti, sono in quel ricco. Salutoni a tutti. Abbassa la televisione Natali, ciao Natali. Cosa stai dicendo Luce? Volevo sapere quanto arrivavo da Savirio lì. E oggi Santiago 8 picchi positivi superi il 9, buona, la modulazione buona, non so come ti arrivo io ripeto, ancora sono in condizioni precarie, ma cerco di sistemare il tutto al più breve. Grazie, no? Però arrivo bene, andava bene, vabbè tu arrivi Santiago 3, però hai detto che c'è un'antenna di macchina, mi sa tanto. Fatta da te, giusto? No, adesso sto utilizzando, c'ho anche un antennino di macchina, sempre di Nino del Poggiolo, però adesso sto utilizzando una Game Master autocostruita, questa l'ho costruita io. Ah, ho capito. E vabbè, già ci ascoltiamo, ma non fa niente, già va bene. E sono con microfono originale, stavo cercando di utilizzare il microfono a tavolo invece di dare qualche un po' di radio in più e invece non sono riuscito a risolvere. Vabbè, con calma lo farò. Allora ti Claudio. Riprendo io, salve, ma dove c'è l'antenna tu? Io adesso c'ho un bel Poggiolo, io sono terrazzo di 10 metri e c'ho l'antenna attaccata fuori, allora ne ho due, una dentro la canna da pesca e non irradia, non va. E quella me l'avevo costruita. Quello che ho fatto io invece sembra che mi ascolti. Sì, super le 9, sei quasi 9,5 da parte mia. No, volevo dire, tu ce l'avevi sul tetto la mantova, eri un bel asso, mi ricordo, no? No, vabbè, la posizione è molto più in basso di dove sono ora. Molto più in basso. Però diciamo che ero sopra il tetto e c'avevo anche un buon palo, era installata bella, l'avevo fatta con un pugno, l'avevo piazzata con l'antenna. E ci è rimasta la bellezza di 11 anni sopra il tetto. Quindi ti sei spostato di casa, non sei più dove c'era Giulio, il laboratorio? No, sono molto più in su. Sono più in su più o meno a livello della chiesa, capito? A livello della chiesa, altezza di Ponte Nuovo, capito? Quindi a Luca le fulmine del baracchino? A Luca arrivo a fondo scala, e beh, siamo vicini con Luca. Allora siamo seguti messi, si accende Franco California qua, davvero mi si accende una palina qua. Guarda, Franco California ieri arrivava quasi 9.30. Franco ti sto dicendo che è qua, attaccata a me. La mia antenna, con la sua antenna sono esattamente, ti voglio dire, pescherie, allora, passerita, 30-40 metri di distanza. Stavo a parlare nello stesso canale, se no guai, quello te lo prendi su 40 canali e oltre. Ok, facciamo riprendere Muros, avanti Claudio di Muros. Sì, questo è Roberto, sì, io sto ascoltando, sì, che stavo parlando con il Colami sul computer, e mi ha mandato le foto di quella radio, tutta smontata a questo, ma dai, non la riconosco più, e come me l'ha fatta, sta dicendo che mi ha fatto, perché non so che qua non sono riusciti a sistemare quella roba del computer, sono un po' più occupato, perché... Guardate che siano gente competente, quelli se non sono giocattoli, quelli bisogna stare molto molto attenti, se no fai danno per migliaia di euro. Vediamo un po' di nuovo a Eugenio, l'amico carissimo e portatore. Zabè, com'è andata oggi Eugenio? A posto, vabbè. Mi sto scendendo adesso, sono entrato, mi sono fatto una doccia, l'ho lavato e stirato e adesso sono qua. A posto. Abbiamo imbarcato... un saccaccio di roba oggi, guarda. Noi tre ci abbiamo fatto un mazzo. Va bene, dai, l'importante è non affaticarti troppo. E Salvedio, avanti a te. Salvedio, non c'è più, vediamo che è rimasto qua, sul 10 qualcuno che vuole entrare. Sì, questo, ecco, aspetta, mi ricordami il cognome, il nome, che mi confondo, avanti. Carlo è portatile, se dove sei? Santiago 9 sei qua, Carlo. Dove sei? In garage, sì. Ma penso gli altri non ti sentano. Qua sei quasi 9, infatti mi sembrava la voce di Carlo, però non ero sicuro perché tu arrivi fondo scala a 9.50, a 9.40 arrivi. Quando sei in stazione, non so, probabilmente non lo sentite, sarà impossibile che voi lo sentiate, però provo a rilanciare a coso, a Muro su prima, hai sentito a Carlo Claudio? Sì, fallo riprendere, avrei subito ma c'è qualcuno parlando? Ma poi Eugenio sta parlando? Comunque non lo sento. E io lo stesso ho sotto il suo. È troppo basso, dai, è in garage e noi siamo abbastanza vicini al bullying e lui, per cui sarà impossibile che voi l'ascoltate. Arriva quasi 9 a me, è in garage con un portatilino, per cui già troppo lo tiro fuori io. Ok, a me mi ascolti bene, Carlo? Arrivo anche qua. Lui deve andare a casa, che non lo sente nessuno. Lei ha detto che sta salendo a casa sua, dai. Ok, ti aspettiamo in situazioni migliori, Carlo, dai. Ok, se no gli amici non si, no, ci blocchiamo il QSO. A dopo allora, avanti torre di controllo. Torre di controllo, ti ha detto che arriva anche qua. Segnale 1. Perfettamente, ciao Carlo, buonasera. Vai a casa, però se no mi fai diventare sordo a tirarti fuori. Comunque arrivi. Dimostrasi, Roberto, che la zona non c'è niente da fare, anche questa è più che soddisfacente. Avanti, Eugi. No, io vabbè, per me è praticamente zero, niente, vabbè, passate, posso pretendere niente. No, volevo sapere, un controllo da Muros, da Claudio di Muros, sapete quanto sto arrivando, Claudio? Sì, QSL, sì, mi arrivo con un cambiato di 5 e mezzo e una radio di 4, molto bassa, di forte, però il cambiato è 5 e mezzo, un po' come ti sto arrivando io e mi contratto il rapporto di Santiago, li prendi? Vabbè, tu arrivi 2, la radio molto bassa, però va, già ti tiro fuori, andale. Claudio! Sì, Quaselle, sì, perché prima stavo usando un giocattolino vintage, di 3 canali, una KP23 della Fayette, per quello che mi senti di basso, riprendi Roberto. Ehi, aspetta che c'è la salve di un parcheggio, salve, ci sei ancora. Ma la modulazione è l'ALC o AMC? ALC, Alfa Lima Charlie. ALC, perché sembra che ce l'ho chiusa. Automatic Lev Control, a mente a Dio, Javi. Automatic Lev Control, ALC, quello devi toccare. Io sono così, mi accorgo il numero di telefono, ci vuole. Non sono uscito, Javi, perdonami, mi è uscito dalla testa. Adesso te lo mando su WhatsApp se ci riesco, dai. Bianco per me un attimino. Anche domani mattina con calma, no adesso, rimani lì, domani mattina con calma. E via, perché devo uscire fuori in veranda, capito? No, se ne non perdo le carte, però ti faccio un WhatsApp. Mi sono dimenticato, cioè avevo delle cose urgenti da fare, comune, pratiche belle varie, mi sono completamente scordato di te. Durante la canzone, mi sono scordato di te. Allora un attimo, c'è problema. Claudio Muros. Mamma mia! Il collo, Claudio, il 21, mi si era guardato lo sister, mi andava al palco, non c'è mai funzionato, che fa più controllare Roberto, e proprio andava al palco, non lo so se è stata qualche volta ricorrente, come è stata quella, direttamente alla scappata, alla fine, capito, non devo usare il stabilizzatore per alimentarla, e non lo so cosa è successo, no, la scappata che era a posto, la stavo usando anche a fare il servizio, la scappata di un'altra, che l'ho mandata a lui, stasera mi manda lo sposto, sta contata a tutti, qua mi non so niente cosa dire, le mie, poi mi manda lo sposto, perché se ne rendi conto, poi deve scaldire che mi sta facendo, ma non le dico niente, lui, perché me l'ha venduta lui, però penso che finisca male la cosa, da come la sto guardando, come l'ha smontata, qua, sono anche un po' dispiaciuto, riprendi. Mamma mia, e io ce l'avevo il millone, si chiama quello, io avevo il 1000D. Infatti gli ho stato pare l'altro giorno, siamo usciti per telefono, se ti serve, ho recuperato il manuale, ce l'avevo dentro un cassetto, evidentemente l'ho venduta senza manuale, meno male non me l'hanno cercato, capito, l'ho data, venduta, versata, l'avevo versata alla CSON per comprare gli effetti 1200, però gliel'ho data senza manuale, con la scatola ma senza manuale, non mi hanno mai cercato, e l'altro giorno l'ho trovato, c'è il manual service, c'è tutto, molto interessante, c'è lo schema elettrico, capito? Quindi se ti serve fatemelo sapere. Vai, Eugenio. Andale. Allora, cosa non c'è? Come si chiama? Carlo, ancora un altro da casa. Carlo, e su però dite si è migliorata la radio? Vai bene di radio G, vai, salvi, vai bene. No, volevo capire se era diminuita o aumentata, aspetta un attimino, mi sembra che sia tutta alta. Guarda che non sia al contrario. Vai, va bene, nel frattempo vai. Nara. Hai trovato poi, mi dovevi dire qualcosa inerente alla macchina, hai trovato qualcosa perché? Sì, a più di uno l'ho trovato, però ti conviene svegliarti, ossia che poi Mario se deve andare. Così è più chiusa, Claudio. Sì, aumenta. Allora, aspetta. Sì, allora era giusta, era tutta aperta. Va bene, 5 è perfetto, abbastanza forte. No, così è chiusa, aspetta. Non fallo in diretta, microfono calcato. Adesso lo girate più alta, Ora. Ora. Via, così devi andare. Oh, a posto, lasciamo così. Dai, adesso un attimino, vi sto ascoltando, apro questo microfono da tavolo, di tavola, di legno, di marmo, e guardo se, come è messo la massa. Ha preso qualche colpo questo microfono. Perché c'è il braccio, quello dove il braccio, dove c'è poi la capsula su, che si muove tutto, è tutto mollato. E allora è quello che ti crea il fischio, perché ricordi che nel microfono da tavolo chi comanda la massa è il piantone. Ecco, è tutto mollato, come io lo tocco balla tutto, sembra che ne stia cadendo. Perfetto, lo apri, guarda che sotto c'è un bulloncino di chiave da 8 e glielo stringi bene e vedrai che non te lo vasi più. Se poi le metti un occhiello, lo fai entrare in quel bulloncino, glielo stringi e l'altro occhiello piccolino lo porti a una vite della carcassa, è ancora meglio. C'ha due viti il mio, ne metti più 4, il mio c'ha due viti sotto per stringere la situazione. Esatto, c'è una piastra con 4 viti o 2 viti sono. Stai attento a non sfasciarla, c'è la piastra, se no te la attacchi al yo-yo, sa fare, tocca modificarlo. Va bene, sì vabbè, ma i prezzi sono quelli, se no non mi interessa. Io ho dato il limite, mi hai dato tu anche qualcosa di meno. Ah, buono. 600 ce n'è? Ah, per le 600 ci sono macchine più recenti, tipo la Lancia Y, c'è una Peugeot 206, e macchine più recenti, dai. Va bene, domani passo e mi fai sapere. Avanti, Claudia, riprendi tu. Mamma mia cosa mi hai detto, cazzo. Mamma mia cosa mi hai detto. Quella è una radio eccezionale, io mi sono messo a piangere. L'ho lasciata accesa, non l'ho fatta in tempo, c'era un temporale, sono andato a attaccare tutto. Nel frattempo che stavo attaccando ha fatto un fulmine che ha fatto un danno allucinante nel mio condominio e mi ha crepato l'FT1000, il 940, altre radio, alimentatori, computer, lavatrice, scaldabagno, un casino ha fatto. L'avevo mandato alla IAESU e la IAESU mi ha detto con tutta sincerità che ci voleva un pacco di soldi a metterlo a posto. Mi avevano fatto la proposta, ma lo avevano ritirato a 800 euro, così fulminato, e avevo aggiunto 500 euro e mi avevo comprato la radio nuova. Però guarda, credimi, mi sono messo a piangere, la versione D da 200 watt, una bestia era. Bello un altro. Salì salito al piano superiore. Aspetta, che sono entrati, prima Luca lo facciamo entrare a salutare e poi è andato Carlo, avanti Luca. Sì, allora sono rientrato, ce l'ho prima, c'era Claudio, Giulio, poi c'era, come si chiama, Saverio, poi chi c'era, Gianni Doppio Room, poi ci avranno chiuso, boh, avanti Robè, ciao Claudio da Mulos e ciao Carlo, riprendi Robè. Allora facciamo girare giusto adesso Carlo che saluterà tutti gli amici, sei in compagnia mia di Claudio De Muros, Eugenio e Saverio che è un CB che era un po' che era staccato, oltre che Luca. Avanti Carlo per i saluti. Sì, buonasera a tutti, adesso penso che mi sentiate più o meno tutti. Saverio, avevo sentito anche Giulio giù in garage che però mi sa che ha chiuso, Roberto, Claudio non ci sono problemi, Claudio De Muros lo ascolto molto molto bene, e prima invece non lo sentivo quasi per niente, però adesso sento tutti, un saluto a tutti, riprendete pure, io sono in ascolto, sono in cucina, per qualsiasi cosa rispondo, grazie. Vai, oggi. Ciao Claudio, ben ascoltato, poco fa era un problema col portatile, ma adesso alla grande, riprendi tra robe. Saverio, l'hai ascoltato a Carlo, sicuramente è molto aperto per la tua parte. Una bombetta, 9+20, non so come ti sto arrivando io di lì, se non vado errato sei a Uri? No, è a Sassari, lui zona Bulig. Ok, 9+20 qua, buono, va benissimo. Poi arriva 9.50 e con i picchi arriva anche oltre, coso, come si chiama, Carlo, siamo vicini, proprio probabilmente neanche ne si vedono. Più piccolo sono io qua, più piccolo è nero. Guarda, dopo di Claudio tu sei più forte, sei quasi 9.30. E vai drogato. E vai, qua. Ciao, genio. Ciao Luca, amico mio, il più piccolo sono io che sono il più lontano. Oggi di tutti i cibi, io sono il più lontano. Buonasera Lu, e allora? Ehi, dai, però ti difendi bene. Aspetta che c'è quel poco male Natalino che vuole dire la sua, perché stasera si è drogato, l'ho visto sotto il ponte di Rosello, cioè con lo spinello inserito nel braccio. Vai Natalino. Bacio. Quindi è... Coccoma. Cazzo, ma io lo ricordo, ma aspetta, questo fatto qua è successo forse 20 anni fa, anche di più. Questo mio amico ci frequentavamo assieme, no? Ma ha raccontato lui, ma io ci credo. Dice che la mamma stava passando sul ponte di Rosello, no? E ha visto dall'alto questo qua che c'aveva lo spinello inserito nel braccio. Tanto non è mio. Ha fatto la dice lo spinello del braccio quando è fumo. Vabbè, mamma mia come sto. Ciao Carlo, buonasera. Comunque Santiago 1 quasi 2 arrivati da dentro il garage, perciò non abbiamo problemi arrivarvi anche da dentro il garage. Molto bene il cambio per Claudio De Muros, vai. Tu sei quasi 9, ti ascolto benissimo. Invece giù dalla mia 25 arrivi un po' bassino, Sì, Carlo arriva bene anche qua, è oltre quasi 9.30. Roberto lo stesso, quasi 9.30, Claudio idem, Savino è il più forte di tutti perché ce l'ho vicino. E Eugenio è il più piccolo, dai. Segnale 3 picchi positivi. Poi lo tiro fuori bene. Dai, avanti Eugenio, riprendi. Io sto facendo fatica perché sta sollevando il QRM qua, sta iniziando a entrare il vento e sta piovendo forte, sto iniziando a fare fatica a sentire a Claudio De Muros. Luca, a me mi senti bene? Sì? Sì lui, sì, io ho voglia. Andava, dimmi se va, dimmi Roberto. Roberto, dico la tipa dello spinello nel braccio se stava facendo. Poi la gente su Vitruvicio invece era nei giardini e c'erano due ragazzi e sapevo, cazzo, ho visto questi due ragazzi facendosi il vaccino da solo, che bravi quei ragazzi. No, vabbè, lo spinello, lei ha convinto che era uno spinello, invece questi stavano bucando con la siringa. Sì, sì, ho capito, no, ma chi c'è anziani? Che bravi questi ragazzi, hai visto, però con un'età, tutti si fanno il vaccino, tutti e due facendo sul vaccino. Cosa ora, mi sentite? Eia! E come esco, come esco? Bene, salve. Va bene come? Bene, no, ma se ne schietto. Amplificata, 5 perfetta, non la sollevare se non inneschi. Allora cosa? Era col braccio, ci voglio fare tutto il braccio. Allora, scusatevi un attimo, voglio che non ci sentiamo tra un po', scusate. Quindi vedi le posizioni erano giuste. Praticamente li fa la massa, li fa quel coso, era tutto smollato. E si tira giù dito, l'esperienza è quella. Tutti i microfoni a piantone, MB più 4, più 5, Turner più 3, tranne quelli professionali che hanno un circuito di preamplificazione separato, quelli la massa della cassa è il piantone, capito? Se il piantone si muove ti fa rientro di RF, deve rimanere fermo, è ben stretto, capito? No, Sarra Ridoni, chiudi. Chiudi tutti i toni, a quanto ce l'hai il microfono? Aspetta, c'è un altro giorno, aspetta, sì, la 8 di microfonia e Mike Green, la gente è cabin job. Sì. Per portarla a 20, dove si deve fermare la lancetta? La tacchetta dopo il 10, la tacchettina del cielo dopo il 10. Sì. Come ce l'ho io, dopo il 10 e 20, l'altra tacchettina è 30, poi c'è 40 vicino al 50, capito? 20, la tacchetta dopo il 10. Ok, va. Piano piano col dittino spingi il power e lo porti proprio a dove c'è la tacchetta del 20, l'importante però, Sì, ora ho provocato, va. E io, leggero, lo metti lì e lo lasci stare lì, non lo toccare più, che va bene 20 watt, 10 sono anche pochi, io sempre a 20 lo metto. Modulati 40, sì, una bomba, già se vuoti così. Oh, Salve, fammi capire, perdonatemi un secondo, fammi capire, Salve, allora. Allora, adesso ho piantato i pomelli, un eco c'ho sotto. No, non c'hai niente, dimmi a quanto ce l'hai il microfono. Allora, adesso ho messo il Mike Green e la manetta, tutto aperto, e il microfono è a metà. A metà, quindi a metà siamo a 5, io ce l'ho qua davanti, siamo a 5. Portalo a 6. Allora, così siamo a 6, 1, 2, 3, io sto guardando il modulatore che c'è sul microfono, però non sale a manetta, guarda un po', invece adesso se sono una troppo non sale di più. Lasciala bellissimo, gatto che fa la batteria, ma cosa di naffuti? Guardate cose che non servono a una minchia, mollalo quello, tu ascolta a me, mettilo a 6 il microfono e chiudimi i toni. Allora, i toni devo essere a zero, e il microfono è a 6, come va tra? E sono una distanza di 40 centimetri. Ma ogni tanto inneschi, allora rimettilo a 5. Aspetta, chiudo appena il Mikey Green dall'apparecchio. Poco a poco, ecco qua. No, non mi interessa a me, mettilo a mano. Ascolta, se ascolti a me, te lo regolo, se no te lo vedi in culo. Metti il Mikey Green a manetta, ti ho detto. Ok, Mikey Green a manetta. No, mettilo a 5 il microfono. Il microfono ora è a metà, a 5. Ok, non stai innescando più. I toni a quanto ce l'hai? I toni sono tutti qui, sono a 0. Mettilo a 1 il tono. Ma perché innesca? C'è qualcosa che non va, sapete? C'è qualcosa che non va. Io ti accendo il Galaxy e ti metto il microfono, l'MB più 5, da 1 a 10 e non innesca. Oh, scusate, mi ha come portato il cane se mi vuoi trippare. Porto il cane, anzi mi faccio portare il cane a fare la pipì, arrivo subito. Andare, Luca, dai. E a me questa batteria che ho comprato mi pare mezzo matta, perché lo strumento nel microfono, quello so. Ok, Panasonic l'ho comprata di via, quel discount perché alla meridiana. No, non mi convince quel microfono, Sarri, veramente, non mi convince. È una cosa che non mi convince, c'è qualcosa che non funziona nel come abbinamento, non lo so. Vabbè, io faccio girare, intanto Roberto si è assentato un attimo. Guarda Claudio, quanti ne hai di microfoni da tavolo di MB più 4 e più 5? Ne hai uno che fischia? Fischiano perché sono fatti a regolarte, cioè ogni radio che hai tu, lo sai di cosa sto parlando, aveva un microfono abbinato che sia più 4 o più 5, perché secondo le radio che tu abbini il più 4 o più 5 ti fanno rientro di RF, fischiano, è un casino, bisogna fare alcune modifiche, capito? Alcune modifiche vuol dire quella interna che conosce bene Cocuomane, Natalino e anche Luca, capito? Io adesso non so questo microfono tuo se è modificato internamente o se è originale, però quelli che avevo io, Claudio, già lo sai, hanno la modifica tutti interna, senza toccare la capsula, le capsule sono originali, ok? Però hanno la modifica interna, hanno un ponticello che si fa. Ok, adesso sto uscendo a 20. Ha detto qualcosa, no? Sempre tranquilla la radio, sì, a posto. Io te l'appoggio qua. Io, ciao Cla, saluto a casa a tutti, è un piacere averti ascoltato, ci sentiamo alle prossime. Il cambio per Eugenio, fai girare. Ciao Cla, ci sentiamo, dai. Niente, fate piacere anche a me. Ci sentiamo tutte le prossime. Ciao. Ripresco contatto Claudio, alle prossime. Mi approfitto per passare un attimo in quel ring che mi devo allontanare un attimo dalla radio. Comunque Claudio, giusto una cosa ti volevo dire, questo microfono era già sopra un presidente Jackson e non so se ti ricordi, usciva perfettamente. Non pensavo ci sia qualcos'altro, dai, comunque ne discutiamo dopo, mi allontano un attimo dalla radio. Quel ring si per me. C'è una chiave a te. Già verrò a prendere una pizza. Ciao, allora, Carlo, buonasera. Buonasera, chi è? Sempre io, Apollo Torres. E allora, qua, ora si è cambiato qualcosa il segnale, che l'ho messo a metti staccato come hai detto tu. Genio, Carlo. Non Claudio, Carlo da questa parte, adesso ti ho sentito perché avevo il volume basso. Qua a me arrivi Santiago 9, Santiago 9 Radio 4, ti sento benissimo. Carlo? Carlo, ci stanno chiamando. Anti? Ciao Carlo Alessio, ascolta, quando vuoi passare, siccome ho trovato, non in cantina, in garage più che altro, quella gente per metterti in macchina, in modo che puoi utilizzare il baracchino e anche lo stereo. Quindi quando vuoi vieni e te lo prendi. OK, il miscelatore, quella roba di cui stavamo parlando l'altra volta. Sì, volentieri, volentieri, magari ci mettiamo d'accordo e mi interessa ancora. Vabbè, Claudio sa dove abito, quindi non c'è problema. C'è anche il numero del telefono mio, quindi al limite mi telefoni, nel caso non ci sono a baracchino, mi chiami e te lo do. Per quello non c'è problema. Bene, mera, cercherò di mettermi allora in contatto telefonico appena possibile. Avanti Eugenio Porto Torres. Ah, come? Ti stavo dicendo, cosa c'entro io se non conosco Carlo? Non so dove abita, non l'ho mai visto, non ho il numero di telefono, non so niente. Cosa c'entro io? Semmai lo puoi dire a Roberto che sono vicini. Vabbè, non sapevo niente di quello, è la verità. Comunque... Comunque, al limite, Claudio sa il numero del telefono mio, te lo può anche dire, non c'è problema, quindi c'entro, non c'entro, ti sto dando l'ok io, non c'è problema. Ma allora non mi sono spiegato, come faccio io a dargli il numero di telefono se non lo conosco, non so chi è, non ho il suo numero di telefono, dove vado a cercare a lui? Daglielo tu il tuo numero di telefono, no? Mi spostate e glielo dai il numero di telefono, Antonè, scusami, io non ti posso aiutare, non lo conosco a Carlo io. Ok, vabbè, Carlo, ci sei? Sì. Sì che ci sono, Antonello. Allora, segnati il numero di telefono mio, 340-92-93-210. Così passi e ti prendi le... sai dove abito? Lo sai che abito sopra coso, Andrea, quindi al bar che c'è qui in via Vadabasso, quindi già lo sai anche tu. Quando vuoi me lo dici, mi chiami e ci vediamo sotto e te lo prendi. Ha ricevuto, adesso mi segno il numero e poi là, quella via, io ci passo un giorno sì e l'altro pure, per tanti motivi, o per andare a lavorare o quando esco, quindi adesso mi segno il numero, ti faccio uno squillo, se ricevi un numero che inizia con 3348 sono io. Ok, va bene, non c'è problema, quando vuoi, no? Così ti tiri quel miscelatore per la macchina, così ti puoi pensare all'antenna del baracchino e anche l'antenna dello stereo assieme. E non c'è nessun problema. Ok, vabbè, ti ringrazio Cla, Spalviero naturalmente. Mi hai dato un po' di spazio. Riprendi pure tu e rientro fra poco, da 5 minuti. Claudio si è allontanato. Capito. Carlo, giusto? No, sono io con i nomi allora. Carlo? Dimmi. Ah, ok. Confronta prima il segnale che è cambiato, è aumentato. Ti ricordi come ti arrivavo prima? Se vuoi ripetere, perché avevo una chiamata al telefono, quindi tra QRM alto che si è alzato e telefonino non ho capito bene, puoi ripetere? Ho detto, se ti ricordi come, stavo regolando una cosa, se ti ricordi il segnale di prima, se è cambiato qualcosa da quello di adesso? Allora, prima mi ricordo che arrivavi molto meglio, è salito adesso forse un pochettino, il QRM è molto alto stasera, infatti avevo lo squelce alto e ti sentivo a tratti, ho dovuto riabbassarlo, per cui prima mi arrivavi meglio. No, vai, sì, ho fatto la regolazione, mi hai tutto qui, però un po', vedi un po' se è migliorato qualcosa. No, è grande, lascialo così. Sei 9 pieno con qui picchi positivi a 9,5, quindi a Roberto dovete arrivare ancora più forte, va benissimo, prima di 8,5, adesso sei 9 con picchi a 9,5. Ok, devo sapere quello, lo lascio così magari lavora un po' di più. Anche qua è migliorato, da 3 a 5. Vedi, va bene, 20 watt per queste radio sono più che sufficienti oggi. Io ne ho 20, modulati 40, se fischio va a 60, però sul parlato sono 40 watt sul parlato. L'importante sono 20, va più che bene. Ma la mia paura di metterla sotto sforzo, capito? Non voglio farla lavorare a regimi alti, ma 20 watt penso li tenga bene. Allora, si disegna, quella radio può andare anche a 50 watt, è importante 100 modulati, oggi si disegna. 20 watt è come che stai usando il baracchino. Va benissimo, e a tutti vado i finali a MOSFET e c'è radio, io non sono riuscito a rubare a chi non. Perfetto. Ha voglia, come dice qualcuno, ha voglia. Va bene, quindi Carlo si è messo d'accordo con Antonello, Antonello abita sopra il bar di Andrea, via ben abbasso, lo sai perfettamente. Io non ti conosco purtroppo, non ti ho mai visto, quindi non posso intervenire su questa cosa. Però già ha fatto tutto Antonello, va bene così. Non so se vuole riprendere Antonello, avanti a chi tocca. Vado a fare una cosa e poi arrivo tra 5 minuti. La verità. Va bene, zio Antonello, va bene. Fai pure, noi siamo qua, quando vuoi intervieni. Avanti Lucarie. Eia, c'è il cane che mi sta stalkerizzando. Come mai? Cosa vuole? La patata? Che cosa vuole, giusta? A tutti buona mangiare, mette Filippo sì. Ogni volta si mettono a mangiare la mela, la frutta, lui è amante della frutta. Se lo vedi mangiando la banana sembra una scimmia. Non la sbuccia perché non ci riesce. Ma tu gliela mantieni in mano, mi così, sbucciata. Oi, su sarete a ricudino. Allora, che te mangia la mela, mangia la banana, ma glielo ho piccolino, ma piccolo, mica glielo la banana, che al cane fa male. Poi vabbè, sta frutta, l'uva non gliel'ho mai dato, non gli ho detto, ma c'è l'una mangiava tutto, melone, anguria, pesca, tutto, l'una, era una fogna. Signori, scusate per il mai che io vi devo salutare che devo andare a masticare. Ciao ragazzi, a domani. Ciao, buonanotte a tutti. Eugenio. Ciao Eugenio, un abbraccio grande, buon fine serata, buon tutto, grazie alle due chiacchiere. Vai Carlo. Eugenio, alle prossime. Ciao Eugenio, alla prossima, là, a domani se Dio vuole, ciao. Ma Carlo, Claudio ha chiuso, abbiamo salutato, anima lunga dov'è? Non c'è più Saverio, batterista molto serio. Non l'ho sentito neanche io, da un po' forse è uscito. No, Saverio si è assentato, claro. Vabbè, ma a lavorare non ci va, invece oggi è lunedì, non lavora lui lunedì. Molto bene, ok. Va bene. Noto, Lu, un leggero miglioramento tuo, Hai aumentato anche di segnale, hai toccato qualcosa? No, scusate, ma ha piovuto, cosa ne so? Adesso sei 9.15. Ah, ecco perché sto usando la Francurisma, poco fa col 430 stavo usando la manta, vedi le 9.10. Adesso sei 9.15 sto usando la J-Pol. Mi dimentico sempre che ho due antenne. Ma questa è una cosa favolosa, Sale di segnale, allucinante, allucinante. Meglio, no, tu vai benissimo, Claudio. Guarda, se io non guardo lo Smith, la radio è sempre rimasta tale, anche quando vieni a carbonarsi. Perciò, senti, Claudio. Senti. Senti dentro le monetti. Hai vinto? No, mica tu dici, no, conservati, Claudio. Adesso lo mettevo... Quando tuo cinturo c'è monete. E il resto, Claudio, che non uscivo 2 euro, 3 euro, 5 euro, 8 euro. E me lo mettevo da parte. C'è da un anno quasi. Quanto tuo cinturo c'è? Poi se ne ho voglia me li cambio, Claudio. Quando sarà? Se no continuo, quando arrivo, che mi servono. Ciao, stavo pensando, me li metto da parte quelli. Quando arrivo tipo 2, 3 mila euro e compro una macchinetta. Eia, va bene, ottimo per la truppa, già ci vuole, aspetta Siria, c'ha le ruote da mettere un po' di svitolo, ok, dove c'è un altro volume, vabbè, chi è che ci è rimasto qui, Dio, tu, Saverio è andato via, Eugenio è andato via, Claudietta è andata a pappare, Carlo. Perché la partita ieri te l'hai vista, com'è andata? Sì, benino, forse il pareggio è giusto, ma non sono d'accordo molto, poteva spingere molto di più l'Inter, però all'ultimo il Milan gli ha dato mattana forte, ha preso anche un palo, però vabbè, ha pareggiato 1-1, già va bene, vai. E prima il Milan 32 punti assieme al Napoli, e l'Inter ne ha 25. Sì, diciamo che ha domato bene, dai. Sì, alla grande. L'Inter ci sa, non è una squadretta che sa zecchiva cicischiare, è sempre un derby, capito? Però poteva spingere un po' di più, forse secondo loro lo faceva. Forse invece il Milan si è chiuso molto, ha preso anche un palo e ha rischiato di prendere il 2-1, però già va bene così, dai, pareggio va bene. Ma io pensavo che era più avanti l'Inter del Milan, e invece cazzo c'ha 25 punti il... è a 7 punti più avanti il Milan, minchia. Sì, sì, il Milan, il Napoli stanno viaggiando forte. Beh, manca la Juve, sta salendo, Sì, ancora una di là. La Juventus ci deve puntare al quarto posto. Non venuta da vano. Campionato quest'anno si sa. Napoli, Milan e Inter e Atalanta. Attenzione all'Atalanta che è un bel forte. Queste sono le quattro squadre che io penso siano le favorite al campionato. Però la Juve deve puntare al quarto posto. Cazzo, se non arriva almeno quarta non fa manco la Champions. Cazzo, per la Juve in mezzo. Ah, la Juve, ah sì, beh, certo. Ehi, vabbè, comunque, diciamo che ci manca Lukaku, un po' accalato. Ehi, ma lo sto vedendo col... dove è andato a giocare, non è che stia facendo queste grandi cose, si già sta segnando, però, insomma, è così. Era più... giocava molto di più per la squadra con l'Inter. E vabbè, cazzo, Lautaro che ha fatto un bel gol. Sono rientrato. Gaffa, vabbè, cioè, parola è tondo, poi i giocatori ci sono quelli bravi e quelli meno bravi, così, amatelo bene. Chi è rimasto qua? Io, tu alle rose, io, tu, Claudio e Carlo che è sparito, È tutta l'arte, Eugenio, Salverio e compagnia cantante. Eugenio ha chiuso, Salverio si è assentato, Salverio di marcia lunga, senti qua, gatta. Si è assentato, sì. Mi Roberto che ha pindacciato, che detto che vinceva il Milan invece ha pareggiato. Mica se quel pallone, l'hai vista la partita, quel pallone è andato alla grande, poi con l'altro la magnata, quello che sì, capito, sulla respinta della puttana in tribuna. E infatti lo stavo dicendo a Luca che ha spinto un po' di più il Milan, però alla fin fine il pareggio sta bene a tutte e due, forse andava meglio all'Inter, perché ha 7 punti sotto il Milan, quindi sai. Per il Milan è un punto guadagnato, perché guardandoti gli episodi, le occasioni, l'Inter ne ha avuto qualcuna di più, però alla fine l'Inter, il Milan ha giocato meglio, gli ultimi 20 minuti ha giocato alla grande, comunque i punti li ha persi l'Inter sicuramente, perché se vinceva si avvicinava, invece adesso è rimasto tutto invariato. Mi dispiace per il Napoli, comunque la partita prossima è Napoli-Inter, anzi Inter-Napoli, e vediamo che pasta è fatta questa squadra. Speriamo che vinci all'Inter, perché a me il ragazzo di Napoli mi ha rubato le balle. Adesso ce ne ha 6 partite difficili in Napoli, ce n'ha una dietro l'altra, che poi deve giocare col Milan, eccetera, eccetera. Adesso vediamo come va a finire. Io preferisco che solo vinca 10.000 volte l'Inter, non mi piace l'Inter, però il Napoli proprio non li posso vedere. Vorrei esaltarti, Però cazzo, quest'anno non so perché stanno giocando a questi livelli. Sta giocando molto bene, maledizione, non lo so, per me le favorite sono Napoli, Milan e Inter. Non sta uscendo il radio. Ciao, portate. Non sta uscendo il radio, forse è Claudio. Ah, Claudio, Claudio, non sta uscendo il radio. Benedetto. MC60 di merda, che vedi cosa fa, vabbè. Ma lo spinotto muovilo molte volte, perché lo spinotto non è infilato bene. Ma non lo sono infilato bene, difettoso, e questo è quello vecchio, il 60, per quello che ho detto me lo voglio prendere un altro nuovo, non lo so, non gli ha dato rimbalzo un raio, vabbè, comunque non è un problema, basta toccare appena sotto, lo fa anche ad Antonio Bombolo ogni tanto. capito? A Mourinho, bella avuto e dura che bel ingaggio ne fatto. Ma hai capito che Mourinho è pronto a andarsene, che se ne andava con quella squadra Newcastle, quella dove ci sono entrati quelli più ricchi del mondo. Prima che se ne vada però, poi veniva la Roma, non so dove la portava, la Roma ad altri livelli, che ha tenuto a fare dei rivaci. No, ma la cosa più schifosa, guarda, io quest'anno mi piaceva come partito tranquillo, prima di denigrare i giocatori che non aveva fatto entrare le riserve, la colpa era mia, non erano all'altezza di giocare, gioco al ritorno con quella squadra che ne era fatto sì, facendo giocare i titolari, e adesso dice che gli mancano due giocatori che gli sarebbero piaciuti avere, parlando male della società, dei giocatori. Ma non si è mai visto una cosa del genere, che un allenatore parla male dei propri giocatori. Non è che nuovo Mourinho a queste cose. Ma non è che parlava male della Juve, della Roma, di tutti quanti, ma dei propri giocatori li ha sempre difesi, parlo l'anno del triplette. Adesso inizia a parlare male dei propri giocatori. Ma è che